Quello che sta avvenendo oggi è proprio una rivoluzione silenziosa che sta portando sempre più petrolio in prospettiva sui mercati internazionali. Dico silenziosa perché ancora non ce n'è cognizione. Qualcuno sta iniziando a dire che forse aveva sbagliato quando prediceva il picco petrolifero, cioè il picco della produzione mondiale. In realtà ci sono ancora riserve immense e ci sono poi tutti i greggi non convenzionali che stanno esplodendo e grazie ai prezzi del petrolio così alti, questo l'avevo sempre detto, per la prima volta nella storia si sta investendo moltissimo per portare questi greggi in produzione. Quindi il paradosso reale è che i prezzi così alti del greggio spingono da un lato nuovi volumi di petrolio che prima o poi arriveranno sul mercato e al tempo stesso spingono lo sviluppo delle rinnovabili, perché solo con i prezzi alti del petrolio e le rinnovabili che hanno ancora bisogno di una lunga incubazione, possono avere un futuro.